L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 22 giugno, era il 174esimo giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:35, tramontava alle 20:48. La luna crescente sorgeva alle 6:26, discendeva alle 22:07. Potevate piantare, trapiantare, potare o propagare per talea nel vostro orto o in vaso fiori o ortaggi a fiore. L'altro ieri avvenne. ~776 a.C. si inaugura a Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. 1633 Galileo Galilei è costretto all'abbiura. 1936 Moritz Skilich viene assassinato sulle scale dell'Università di Vienna da un fanatico nazista. 1941 Seconda Guerra Mondiale, le prime unità armate dei partigiani antifascisti croati vengono fondati nei pressi di Sisak. 1946 viene emanata dal governo italiano appena divenuto repubblicano l'amnistia passata alla storia come l'amnistia Togliatti. Questi era infatti il ministro di grazia e giustizia dell'epoca. 1948 viene scoperta da un gruppo di scienziati statunitensi la vitamina B12. 1956 un gruppo di scienziati dell'Università di Los Alamos nel Nuovo Messico scopre il neutrino. 1976 il Parlamento canadese abolisce la pena di morte. 1978 James Christie scopre il satellite di Plutone chiamato Caronte. 1983 scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. 2005 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazema. Moriva il 22 giugno 1987 a Los Angeles, a 88 anni, Frederick Austerlitz, in arte Fred Astaire. Beh, c'è qualcuno che non conosce Fred Astaire? Qualcuno che non ha mai sentito nominare Fred Astaire e Ginger Roger? Fred e Ginger? No, niente? Ci sembra molto improbabile. Improbabile, ma non impossibile. Quindi, chi era Frederick Austerlitz, in arte Fred Astaire? Fred Astaire nasce in Nebraska il 10 maggio del 1899. Vi diciamo subito che Fred voleva diventare un ballerino. E come poteva essere la vita di un uomo nato alla fine dell'Ottocento che voleva diventare un ballerino? Quella di Fred non era per niente male, perché era figlio di un facoltoso austriaco emigrato in America, quindi studiò alla Vienna School of Dance e alla Ned Wayburn School of Dancing. Fin da piccolo, Fred, spinto da un'irrefrenabile attrazione nei confronti della danza, prende lezioni e impara i passi essenziali. Appena si sente pronto, inizia a danzare nei cabaret e nei teatri di vaudeville insieme all'inseparabile sorella, Adele, la sua sorella maggiore, che sarà poi sua partner professionale per più di 25 anni. E anche a questo punto della sua carriera, Fred non soffre molto. Per non essere le solite tre stronze maliziose, diciamo che grazie alla loro bravura e al loro talento non passarono inosservati Fred e Adele e saltarono a piedi pari la solita snervante gavetta. I due fratelli si videro offrire la partecipazione a un lungometraggio quando erano poco più che quindicenni. Ma sinonimo di balletto e di musical, allora come oggi in realtà, era Broadway. Vera meta e ispirazione di entrambi i fratelli. Bisogna anche dire che a quei tempi il cinema non aveva la diffusione capillare che ha oggi e non offriva neanche lo stesso prestigio. A popolarità e, come al solito, a sordi. Comunque, insomma, dicevamo, Fred e Adele, che essere bravi erano bravi, prepararono uno spettacolo in cui poter mettere in luce tutte le loro capacità, fatte di numeri fulambolici e di passi virtuosistici. In una New York, ai primi del Novecento, più sfavillante che mai, il musical che li portò alla ribalta fu Over the Top, di nome e di fatto, perché lo spettacolo si chiamava proprio così, Over the Top. Grazie a questo musical la coppia esplode, pubblico e critica fanno a gara per trovare gli aggettivi più eclatanti e lo spettacolo riscuote continuamente serate di tutto esaurito. È solo l'inizio di una serie di grandi successi che dureranno per una ventina d'anni. Gli Astaire contribuiranno al successo dei musical più importanti a Broadway e lunga fu la collaborazione con uno dei più grandi, George Gershwin. Nel 1931 Adele si sposa e si ritira dal mondo dello spettacolo e qua ci viene da dire, e ti pareva? In questi anni Fred viene chiamato a Hollywood, come tantissime star di Broadway di quel tempo. Il 1934 è l'anno che vede ufficializzarsi uno dei più grandi sodalizi della storia del cinema, quello con Ginger Rogers, Fred Astaire e Ginger Rogers. Eccoli qua. Fellini ne trarrà spunto per uno dei suoi ultimi film. Questa coppia di attori e ballerini diventò così famosa, è diventata così famosa, anche simbolo di complicità, che basterà poi chiamarli semplicemente Fred e Ginger e quasi tutti sapranno di chi stiamo parlando. Ci raccontano le prime Olimpiadi della storia, le ragazze dell'almanacco. Bum pam bum pam parara, bum pam bum pam parara, bum pam bum pam parara. Approfondimento dell'almanacco dell'altro ieri a cura di Maria Elisa De Rivombrosa e Banana Naio. Il 22 giugno del 776 a.C. si tengono le prime Olimpiadi della storia. Sì, ma dove? Beh, niente po' di meno che a Olimpia, nel cuore dell'Elide, a sud-ovest dell'attuale Grecia. E se proprio ci voleste andare, diciamo che non è lontano da Patrasso. Le Olimpiadi per quattro secoli sono l'evento più mondano dell'anno, a cui proprio non si può mancare. In principio solo per i greci, e poi, dopo tutte le conquiste di Alessandro Magno, stiamo nel IV secolo a.C., per tutti i popoli del Mediterraneo. Quindi tutta la Grecia che se lo può permettere prende parte alla grande festa di Zeus Olimpio per 5 giorni filati e per questi giorni vige la tregua olimpica, che è sacra. Sì, perché infatti durante le Olimpiadi le guerre sono sospese, le condanne a morte rimandate e le cause legali vietate. E guai a chi viola la tregua, pena l'esclusione dai giochi olimpici, che è percepita come una scomunica. Quindi gli atleti, e dico solo gli perché alle donne era vietato partecipare ai contest, arrivano un mese prima ad Olimpia e sono obbligati a giurare di fronte a Zeus di essere allenati, di essersi allenati almeno 10 mesi prima delle gare senza interruzione. E... Ena, Dio, Tria... Che i giochi abbiano inizio. Ed ecco che gli atleti si avvicendano nello stadio e si cimentano nella corsa, lotta, pugilato, pancrazio, pentatron e, perché no, nella più spettacolare corsa delle quadrighe. Ma dobbiamo immaginarlo proprio come un evento pazzesco, calimera di qua, calisfera di là, centinaia di persone si incontrano da tutto il mondo conosciuto per celebrare Zeus Olimpio e dilettarsi alla vista dei giochi. Insomma, un gran bailamme di bibitari, bagatini, allibratori e chi più ne ha più ne metta. Dagli spalti se ne vedono delle belle, nel pubblico ad acclamare ci sono anche poche donne, quelle ancora nobili, che però, diciamo, sono un pochino più contenute delle loro coetanee romane, che alla vista dei gladiatori si sgolano con «Sposami! Amami! Prendi me!» E se gli spettatori se la godono, dall'altra parte i nostri atleti sono belli under pressure, sono belli sotto pressione. Arrivano ad Olimpia per vincere. Il secondo e il terzo posto non significa niente, perché perdere ad Olimpia è un disonore. Ma poi, questi atleti che vincono quando vincono? I vincitori conquistano una deliziosa corona di fiogli di olivo intrecciata con rami degli ulivi sacri. Si beccano una statua che li rappresenta nel tempio di Zeus e dulcis in fundo verranno cantati dai poeti a seguire. Insomma, qui non si gareggia per i soldi, ma per l'immortalità. Cara Maria Elisa di Livombrosa, hai presente l'espressione «ma stai a fa sta cosa per la gloria?» Ecco, lì funzionava proprio così. Nel 380 d.C., con l'editto di Tessalonica, il cristianesimo diventa l'unica sola religione dell'impero romano e vengono proibiti i culti pagani. E addio Olimpiadi! Dopo circa 1500 anni, un barone francese Pierre de Coubertin fa rivivere lo spirito dei giochi sacri dell'antichità e nel 1896 nascono le Olimpiadi dell'era moderna. Al motto Citius Altius Fortius, più veloce, più alto, più forte, ogni 4 anni squadre di tutto il mondo si incontrano per sfidarsi in più di 400 discipline. Perché l'importante non è vincere, ma partecipare. E aggiungeremo noi, facci i sordi! Basti pensare alle Olimpiadi brasiliane del 2016, dove per ripulire Rio sono state spazzate via intere favelas e represso nel sangue ogni tentativo di rivendicazione del diritto alla casa. Senza mettere in dubbio l'importanza etica e sociale dello sport promossa da Monsieur de Coubertin, purtroppo dal 1936, Olimpiadi di Berlino sotto il nazismo, nonché fiore all'occhiello del Führer, questo evento sportivo si trasforma in un'occasione imperdibile per palazzinari e speculatori d'ogni sorta e soprattutto diviene una vetrina patinata per sponsor politici e non. Ma ecco che il 16 ottobre del 1968 a Città del Messico qualcosa inceppa questo ingranaggio. Sono i due pugni alzati di Tommy Smith e John Carlos, due velocisti afroamericani. Smith stabilisce il nuovo record del mondo e Carlos si piazza al terzo posto. Dopo essere saliti sul podio, per la premiazione ricevono le medaglie e all'incipit dell'inno americano i due, all'unisono, abbassano la testa e alzano un pugno chiuso indossando dei guanti neri, simbolo della lotta delle Black Panthers. Un'organizzazione politica questa nata qualche anno prima ad Oakland, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il movimento di liberazione degli afroamericani, poiché ancora discriminati socialmente, politicamente e legislativamente. La premiazione di Tommy Smith e John Carlos è carica di simbologie, ha rimandi precisi alla cultura afroamericana. Entrambi scalzi, con le calze nere come simbolo di povertà, la tuta sbottonata in solidarietà ai lavoratori e la collana di perle per simboleggiare le pietre usate nei linciaggi e infine il pugno chiuso verso il cielo. Sul podio, fra di loro, c'è anche Peter Norman, velocista australiano che in solidarietà alla loro lotta indossa la spilla dell'Olympic Project for Human Rights. E qui, dove sembra che finalmente lo spirito positivo di de Coubertin finalmente trova spazio, il comitato olimpico guidato da Avery Brundage, un fascista infame già oppostosi al boicottaggio delle Olimpiadi nella Germania nazista, esclude i nostri atleti dal villaggio olimpico e ne chiede la sospensione immediata dalla squadra americana. Ma i loro pugni rompono il silenzio e distruggono la scintillante vetrina olimpionica del perbenismo occidentale. Vogliamo la libertà, abitazioni decenti. Vogliamo un'istruzione che smascheri la vera natura di questa società americana decadente. Vogliamo l'esenzione dal servizio militare e la fine immediata della brutalità della polizia e dell'assassinio della gente nera. Le rivendicazioni delle Black Panthers sono chiare, non un passo indietro. E a 50 anni di distanza ci sembrano più attuali che mai. Black Lives Matter. Con George Floyd nel cuore. Boom pam boom pam parara, boom pam boom pam parara, boom pam boom pam parara, boom pam parara. Bum pam bum pam parara, bum pam bum pam parara, bum pam bum pam parara, bum pam parara. Sant'Anna di Stazema. C'è una grande vallata che scende fino al mare, ricamata da castagni e ulivi, poche case, qualche roccia bianca appuntita. Una mamma stende il bucato al sole, il profumo di pulito si mischia a quello delle erbe selvatiche. E qui adesso ci piacerebbe raccontarvi una favola. Ma invece affatto, perché il 12 agosto 1944 a Sant'Anna di Stazema, nelle colline sopra Lucca, avvennero fatti reali che vale la pena raccontare. È il 12 agosto del 1944. Quattro razzi rossi si scagliano nel cielo. È così che si annunciano le SS, i tedeschi, quando arrivano nei paesi per cercare i partigiani. Infatti gli uomini pensano alla rituale retata e salgono su per la valle, in alto. Arrivano quattro compagnie delle SS. A Sant'Anna, giù in paese, rimasero in gran parte solo vecchi, donne e bambini. Una delle prime case in cui entrarono fu quella di Evelina. Aspettava la levatrice perché doveva partorire. La uccisero. Il marito di Evelina fu trucidato con i suoi due fratelli qualche metro più in là. Quella mattina i tedeschi uccisero anche una bambina di 20 giorni, Anna, che morirà un mese dopo perché era troppo piccola per sopravvivere alle ferite. I nazisti radunavano più gruppi di persone possibili, trascinandole fuori da casa per ucciderle. Alla fine le vittime di questa strage furono 560. Quelli accertati, perché il numero esatto non si saprà mai. I tedeschi buttarono le bombe e poi diedero fuoco alle case. Devastato il paese, prendono la strada di Val di Castello continuando a mietere vittime. A Sant'Anna cala il silenzio, resta la disperazione dei sopravvissuti per i quali la guerra non finirà mai più. Vorranno 60 anni prima che inizi il processo. che arrivò a sentenza il 22 giugno del 2005, con la condanna all'ergastolo di 10 ex appartenenti alle SS. Ma si sa, da prove, che tra i responsabili c'erano anche degli italiani, militari italiani. Dalla testimonianza di Alba e Ada, due sopravvissute che all'epoca avevano 17 e 15 anni, si legge che quattro parlavano perfettamente italiano, usando anzi tipiche espressioni dialettali della zona, e che furono proprio loro ad ammazzare i genitori delle ragazze. Ed entrò in azione anche un discreto numero di collaborazionisti, almeno una quindicina. Guidarono i nazisti per le impervie mulattiere che portavano a Sant'Anna. Si caricarono sulle spalle cassette di munizioni. Particolare attenzione merita un noto fascista locale che l'11 agosto, il giorno prima della strage, aveva cercato un rifugio per la moglie e le due figlie. Un indizio macroscopico che l'eccidio era stato veramente programmato. Una testimone riconobbe in lui l'uomo che, mitragliatrice alla mano, fece fuori 17 persone del suo gruppo, ferendo anche lei a un polmone. Lo rivide qualche anno dopo al mercato di Pietrasanta, gli saltò al collo, lo graffiò, gli strappò i capelli e lo prese a morsi. Intervennero i vigili urbani e scoprirono che lui portava ancora con sé un lasciapassare tedesco. Lui si giustificò dicendo che anche sua moglie e le sue due figlie erano state uccise, e in effetti era vero. Probabilmente, da bravo stupido fascista, il rifugio da lui cercato per i suoi congiunti non era stato poi così sicuro. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e un pensiero complice a chi, davanti alle ingiustizie, non fa un passo indietro. È finita la commedia.